Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. È una giornata, questa undicesima, mutilata dal maltempo. Come ormai saprete, il rinvio di Genoa-Inter non è più una notizia di cronaca. Lo è invece questo rinvio del big match di questa sera. La giornata si sta per chiudere perché la partitissima del San Paolo tra Napoli e Juventus non si giocherà. Causa maltempo che nella notte, nella mattinata, ha reso difficili soprattutto le condizioni di accesso allo stadio. Poi facciamo sentire alcune dichiarazioni di De Magistris, sindaco di Napoli, vi facciamo sentire alcune dichiarazioni di Bigon, vi leggeremo invece alcune dichiarazioni, non senza polemiche per la verità, di Beppe Marotta, che non ha letto in questo rinvio una certa malizia napoletana, ma alcune pressioni evidentemente sono state fatte per risparmiare in questo momento non semplice per il Napoli, reduce dalla sconfitta di Champions League a Monaco, questa partita che era molto importante in realtà per i partenopei e per gli equilibri del campionato napoletano, e dunque questa partita non si giocherà, nonostante a Napoli adesso la situazione meteorologica sia tranquilla. Però guardiamo quello che sta succedendo sul campo, perché il Milan sta vincendo largamente con il Catania, l'Udinese sta vincendo e in questa classifica tutto in divenire, tutta provvisoria, andrà a dormire con il primato. Ovviamente c'è Giovanni Capuano collegato con noi che ci tiene il polso di quest'ultimo quarto d'ora di gioco delle partite. Ciao Giovanni, dici cosa sta succedendo. Carlo, buon pomeriggio. Dici cosa sta succedendo. Allora, manca circa un quarto d'ora su tutti i campi. Ci sono 2-0 che sono quelli di Bergamo tra Atalanta e Cagliari e quello di Roma tra Lazio e Parma, tra l'altro 1-0-0 in cui è il Parma a rendersi maggiormente pericoloso rispetto alla Lazio. E poi c'è l'1-0 del Lecce a Cesena, gol all'undicesimo del secondo tempo di Quadrado in contropiede, l'1-0 parziale del Chievo sulla Fiorentina al 21esimo Rigoni, partita che rischia di essere l'ultima di Mihajlovic sulla panchina viola. Milan avanti 4-0 sul Catania nel primo tempo, Ibrahimovic su rigore e Robinho per il 2-0 nel secondo tempo, in 3 minuti al 24esimo Lodi, un'autorete, una carambola su un tiro di Robinho, migliore in campo, e poi al 27esimo il 4-0 di Zambrotta. E poi c'è il 2-0 dell'Udinese sul Siena nel primo tempo, dopo 50 secondi basta per l'1-0, nella ripresa al 19esimo, indovinate un po', Totò Di Natale, per lui 8° gol, sempre più capocannoniere di questa Serie A. Giovanni, vedendolo così il Milan sembra aver metabolizzato una settimana non semplicissima, dai problemi di Cassano a un pareggio in Champions League che mette il Milan in difficoltà nella corsa al primato del girone, che è molto importante come sapete con il Barcellona. Senza dubbio, ma bisogna dire che al di là del mezzo passo falso di Minsk contro il Bate Borisov, in cui comunque il Milan aveva tutt'altro che demeritato dal punto di vista della qualità, intanto ti segnalo che ha segnato il Siena 32esimo del secondo tempo accorciando le distanze a Udine, quindi Udinese 2 Siena 1, un diagonale di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore, palla sotto la traversa, e quindi Siena che si rimette in partita. Ti stavo dicendo, al di là del mezzo passo falso di Minsk, la partita spartiacque della stagione del Milan sembra essere stata la sconfitta di Torino contro la Juventus. Da quel momento in poi in campionato, con quella di oggi, sono arrivate 5 vittorie, e tra l'altro con una semplicità in attacco che è disarmante. Se dovesse finire così, pensa che in 5 partite il Milan avrebbe realizzato 18 gol subendone 6, è l'aspetto che piace meno a Gagliani, ma se i numeri sono questi è difficile trovare avversari al Milan. Se non sbaglio l'ha segnato Bolzoni, il gol che ha ex Inter, giusto? Assolutamente, Bolzoni. Bolzoni in gol per il Siena, dunque 2-1 per l'Udinese che in questa classifica molto provvisoria è in testa, sarebbe in testa con 21 punti, uno in più del Milan, e la Juventus che andrà a dormire appunto al terzo posto con qualche rammarico. Giovanni Capuano naturalmente sta collegato con noi perché vorrei subito andare su queste voci napoletane sul rinvio della partita, e poi aspetto anche le vostre telefonate e i vostri commenti. 800 24 00 24 numero verde, messaggi 349 238 6666, ovviamente ci sono anche Facebook e Twitter con le nostre pagine e con i nostri contatti. Dunque, questa mattina Napoli si è svegliata con diversi problemi dovuti alla forte pioggia che è caduta nella notte. C'è un tunnel importante di accesso allo stadio che era allagato, hanno cominciato a chiamare gli steward che stavano già andando allo stadio, guardate che qui non si può passare. riunioni su riunioni e questa partita è saltata. Allora, cominciamo a sentire De Magistris, sindaco di Napoli, che cosa ha detto. Abbiamo deciso per una serie di motivi di rinviare la partita, sia perché il personale è tutto impegnato sul territorio, sia perché il campo, la società Calcio Napoli ha detto che già è impraticabile sostanzialmente, e comunque anche per ragioni di viabilità, perché una partita vengono circa 60.000 persone, vengono dalla provincia, da zone come Pozzuoli dove addirittura c'è stato un morto. Questo il sindaco di Napoli. Abbiamo anche Bigon, però sempre sul fronte napoletano. Poi invece vi leggo le dichiarazioni di Marotta. Condividiamo in pieno, soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sinceramente la situazione poteva diventare preoccupante e anche pericolosa per tutti i 60.000 spettatori. Non dimentichiamoci che non era una partita normale, ma lo stadio era esaurito, quindi sinceramente l'afflusso sarebbe stato molto difficoltoso e problematico date le condizioni del tempo. Dal punto di vista sportivo, sono stato a vedere il campo stamattina, probabilmente ci sarebbe stato anche il grosso rischio che la partita venisse proprio rinviata direttamente dall'arbitro per impraticabilità, perciò insomma dal punto di vista del Napoli è una decisione assolutamente condivisibile. Dal punto di vista del Napoli è una decisione condivisibile, bisogna vedere dal punto di vista della Juventus. Mentre c'è un gol in Serie A, lo segna l'Atalanta e tra poco Giovanni Capuano ce lo racconta. Nel frattempo però vi leggo le dichiarazioni di Marotta. Gli ordini delle autorità prevalgono, come giusto, sull'interesse sportivo, e fin qui ci siamo. Poi però, dice Marotta, siamo dispiaciuti perché avevamo preparato a fondo questa partita e siamo in un buon momento di forma, reduci da una bella vittoria. Il Napoli, che ha partecipato al vertice, quello in cui è stato deciso il rinvio della partita, avrà certamente avuto qualche elemento in più per aiutare le autorità nell'analisi. E poi, vabbè, purtroppo i fatti di questi giorni prevalgono sul resto, il calcio non può e non deve vivere fuori dalla realtà. Però, come dire che al Napoli, tutto sommato, il rinvio reduce dalla trasferta di Monaco di Baviera in partita così determinante, perché il Napoli avesse perso, avrebbe ridimensionato fatalmente le sue ambizioni di scudetto, la sua presenza concreta nella zona alta della classifica, ebbene per il Napoli era molto importante, quindi il rinvio tutto sommato ci può anche stare. È chiaro che insomma si tratta di decidersi se c'erano le condizioni per giocare, per garantire l'accesso di un sacco di gente allo stadio è un conto, se non c'erano le condizioni è un altro, quindi bisogna decidersi. Siamo troppo tempestivi nell'emergenza, non lo siamo abbastanza e quindi non riusciamo a prevedere per tempo le difficoltà. È ovvio che questa polemica esiste e voglio anche sentire la vostra voce oltre a quella dei diretti interessati. 800 24 00 24 numero verde. Chi ha segnato per l'Atalanta, Giovanni? Ha segnato sempre lui, German Denis, settimo gol in campionato, è stato molto bravo perché su un traversone dalla destra ha controllato il pallone al limite dell'area di rigore, si è girato, ha resistito a una carica da parte dell'ultimo difensore del Cagliari e poi sull'uscita di Agassi ha messo in rete un pallonetto morbido. Atalanta che con questo gol sale a quota 12 in classifica senza la penalizzazione, si troverebbe in questo momento in quinta posizione a quota 18 dietro le grandissime Milan, Juventus, Lazio e Udinese. Benissimo, adesso però digressione doverosa per andare a Valencia, dove oggi c'è stata una giornata particolare e molto triste, io credo, sono certo a chiudere la stagione del moto mondiale. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, la racconterà ai lettori del Corriere, ma la racconta anche a noi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao. Cosa hai vissuto oggi a Valencia? Una giornata difficile, perché così l'impressione, stavo pensando poco fa, parlando con Loris Capirossi, che tra l'altro ha fatto l'ultima gara della carriera, e se è vero che lo spettacolo deve continuare, come si usa dire, questa volta è continuato, ma sembrava ci fosse proprio la voglia di stare fermi, di non andare avanti, perché è stata veramente dura, le facce fanno fatica a rilassarsi, i sorrisi sono tirati, la gara conta poco. È stata veramente dura, insomma sembra che sia veramente complicato metabolizzare quello che è successo. D'altra parte era impossibile aspettarselo. Io credo sia stata così toccante la mattinata, no? Sia stato un momento particolarmente intenso, molto di più di una gara che, come dicevi tu, non aggiungeva e non toglieva nulla a nessuno. L'ha vinta Stoner davanti a Spies e Dovizioso, quarto crash, lo Valentino ha dato per terra subito dopo il via quasi a sintetizzare la sua stagione, mi pare, però la gara oggi stava lì sullo sfondo, in fondo non importava a nessuno. Quel giro di pista delle 10:10 importava molto di più. Importava molto di più, è stato... Ma guarda, io tra l'altro l'avevo notato anche ai funerali, nella drammaticità era stato un momento comunque anche bello, perché era stato un modo differente rispetto a quello a cui siamo spesso abituati, no? Di commemorare i morti, eccetera. E, era nello spirito di Marco, e lo stesso è stato questa mattina, quindi devo dire che è il brutto, ma anche una sorta di leggerezza, insomma, ecco, molto, molto alla Sitch, ecco, diciamo così. Devo dire che la gara che forse è contata di più, anzi non forse, senz'altro, è stata quella della Moto2, perché l'ha vinta Michele Pirro, che, sì, era, che è del team di Marco, quindi insomma come un copione scritto prima si è realizzata questa cosa molto bella, e devo dire che vedere Fausto Gresini alla fine di questa gara è stato nuovamente un'altra esperienza molto, molto toccante, perché insomma se lo meritava. Tra l'altro curiosamente è accaduto lo stesso che era accaduto nel 2003, quando dopo la morte di Cato la gara successiva aveva vinto Gibernau, sempre dello stesso team di Gresini, quindi come se così hanno voluto le stelle, una sorta insomma di minimo risarcimento, sì, per la tragedia vissuta. Sì. L'ultima cosa, Alessandro, cosa leggi nel futuro? Oggi si spengono i motori con grandissimo dolore, come sappiamo bene, ma cosa leggi nel futuro del circo? Cioè adesso sai, ci sono quelli che vorrebbero Valentino Rossi sulla moto di Simoncelli all'ultima corsa della stagione, e adesso vale un po' tutto, però realisticamente che cosa leggi nel futuro del moto mondiale di Valentino Rossi? Guarda, nel futuro del moto mondiale vedo molta nebbia, vedo molta confusione, adesso al di là di quello che è accaduto a Sepang, che ha comunque portato forse un po' alla luce un senso di spaesamento generale, con Marco Simoncelli, con Loris Capirossi, perdiamo due protagonisti insomma importanti, straordinari anche a livello mediatico, va detto. E tecnicamente la 9000 sono un po' un'incognita, Valentino Rossi è sempre più un'incognita con questa Ducati, sicuramente il 2012 sarà un anno, noi speriamo tutti migliore per lui, ma io faccio fatica a vederlo come un anno vincente, quindi bisognerà vedere nel 2013 se resterà in Ducati oppure no. Insomma, quindi vedo, ecco, molta nebbia e una MotoGP in generale, un motomondiale che deve un po' ritrovare se stesso, davvero, sia nello spirito che proprio nella parte tecnica, più manageriale e organizzativa, diciamo. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Grazie a tutti. Grazie ad Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, alla Gio Valencia. Mentre in Atalanta-Cagliari sto vedendo un po' di gazzarra in campo con Daniele Conti protagonista, finale di partita nervoso, mentre manca un minuto al 90esimo e l'Atalanta vince 1-0 per effetto del gol di Dennis che prima vi abbiamo raccontato. Adesso quello che ci racconta Giovanni Capuano invece è un gol che cambia la testa della classifica della Serie A, no Giovanni? Sculli è arrivato al 40esimo del primo tempo, in realtà gran parte del merito è stato ancora una volta di Klose sua all'azione personale che ha messo Kojak in condizione di tirare praticamente a porta vuota, respinta sulla linea di Zaccardo, è arrivato Sculli da un centimetro, l'ha messa dentro. Lazio che in questo momento è prima, pari merito con l'Udinese a quota 21, Udinese che sta soffrendo tantissimo in questo finale contro il Siena dopo gol di Bolzoni, il gol del 2-1 che ha riaperto la gara. L'accenno di Rissa a cui ti riferivi prima in Atalanta-Cagliari è per un'azione che il Cagliari non ha bloccato e che ha portato Nenè solo davanti a Consigli ha respinto il pallone, c'era però a terra al limite dell'area di rigore un difensore dell'Atalanta, Lucchini, e gli animi si sono accesi perché secondo i giocatori bergamaschi il Cagliari avrebbe dovuto buttare fuori il pallone. Vabbè, solite storie, solite polemiche. Io, come sapete, sto con il Cagliari perché toccava a Giacomelli, che di professione fa l'arbitro, decidere se fischiare o meno l'interruzione del gioco. Però questa è un'opinione soltanto mia e non so chi la vuole condividere. 800 24 00 24, numero verde. Tra l'altro ho visto Giovanni che prima anche Inzaghi stava per iscriversi al tabellino di un Milan-Catania che è diventata la festa del gol solo rossonero. Sì, guardi, Inzaghi che è entrato al posto di Seedorf a 10 minuti dalla fine, applauditissimo dalla gente di San Siro, si è trovato a tu per tu con Andukar su una verticalizzazione di Ibrahimovic. Andukar gli ha toccato con il piede il diagonale che era diretto all'angolino, palla che si è persa sul fondo. La cosa particolare che disegna molto del personaggio Inzaghi è che siamo sul 4-0 a oramai tempo scaduto. Inzaghi si è disperato, nemmeno come se avesse sbagliato il gol della vittoria in una finale di Champions League. Evidentemente ci teneva tantissimo, ricordiamoci che in settimana si è anche parlato di una possibile partenza di Inzaghi a gennaio per altri lidi, visto che Allegri di fatto non l'aveva mai utilizzato e in alcune occasioni nemmeno mai convocato. Quella del mercato in divenire del Milan è un gran bel tema, no? Perché insomma gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno aperto diverse porte e portato a diverse voci, compresa quella di un Milan che potrebbe sostituire Cassano con Del Piero. A me sembra abbastanza fantasia, però questi copioni cinematografici, come sapete, al Milan piacciono molto, e piacciono molto soprattutto al suo proprietario. Quanto a Cassano, mi viene da pensare, cioè, tutti ci auguriamo ovviamente che torni in campo il prima possibile, che, come dice Albertini, possa togliersi tante altre soddisfazioni con un pallone tra i piedi. Io penso soltanto, proprio per collegarlo al discorso Inzaghi, che se avesse la fame di calcio che ha ancora, la voglia, quella rabbia, quella mania di calcio che ha ancora Filippo Inzaghi, non avrei grandi dubbi. Non so se Cassano, che poche settimane fa, che un paio di settimane fa ha detto vai, gioco ancora un paio di stagioni e poi mi dedico ad altro, non so se Cassano abbia ancora quella fame lì. Questo non lo sa soltanto lui. Speriamo naturalmente di sì. Tra poco i finali di questa 11ª giornata mozzata della testa, cioè dell'anticipo delle 12.30, Genoa-Inter, della coda, cioè Napoli-Juventus di stasera, partita che non si giocherà e sulla quale tra l'altro Marotta ha detto anche un'altra cosa, tanto per lasciar lì un po' di malizia prima di ripartire da Napoli alla volta di Torino, e ha detto: saputo del rinvio dalla TV, Lega Calcio non sapeva, ho chiamato il DS Napoli Bigon, mi ha detto quando hanno deciso col prefetto, da regolamento si deve giocare alla prima data disponibile, che, dice Marotta, sarebbe il 30 di novembre tra due partite di Champions League, tra l'altro. Quindi non so se al Napoli potrà andar bene questa proposta marottiana. Giacomo Bagnasco per una pagina di rugby prima dei finali in Serie A. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Non è una pagina allegra. Eh sì, perché c'è stato un passo indietro anche del Benetton. Ieri, 8ª giornata del Pro 12, quella che si è chiamata Celtic League fino all'anno scorso, 2 sconfitte in casa delle italiane contro 2 squadre, le 2 squadre scozzesi. Benetton Edimburgo 11-22, Aironi Glasgow Warriors 6-18, la seconda partita consecutiva che gli Aironi perdono 18-6 senza subire e senza segnare mete, ma stavolta mentre la prima partita in casa del Munster era un risultato accettabile, stavolta è andata decisamente peggio. Una riflessione, Carlo, i marcatori delle 2 squadre scozzesi, entrambi mediani d'apertura, quindi giocatori a cui l'allenatore consegna le chiavi della cabina di regia. Per l'Edimburgo Harry Leonard, 19 anni, 17 punti. Per il Glasgow Warriors Duncan Weir, 20 anni, 18 punti, cioè tutti i punti della sua squadra con 5 calci piazzati e un drop. Se pensiamo che a livello, diciamo, seniores, la Scozia ha 2 mediani d'apertura, mi dici, come Parks e Jackson, e pensiamo a quello che ha detto Brunel quest'anno. Giacomo, mi dici per curiosità chi sono i pari ruolo degli Aironi e di Treviso? E naturalmente sono dei giocatori stranieri, e questo è il grave dilemma. E dicevamo appunto, Carlo, è stato presentato il nuovo CT della Nazionale Jacques Brunel questa settimana e ha subito puntato il dito su questo problema, ha detto abbiamo 4 giocatori che perlomeno in prospettiva sono dei giocatori di livello internazionale per quanto riguarda il ruolo di mediano di mischia. E quando si è trattato di citare un mediano d'apertura di livello internazionale, penso che Brunella così si sia giustamente astenuto. Questo rimane un grave problema per le squadre italiane, naturalmente per la nazionale italiana, anche in vista delle coppe europee che cominciano nel prossimo fine settimana in Heineken Cup. si giocheranno a Ironi Leicester, speriamo con Castro Giovanni, nuova sede per gli Ironi per quanto riguarda l'Heineken Cup, lo stadio Brianteo di Monza, e a completare la doppia sfida con l'Inghilterra Saracens Benetton. L'ultima notizia è questa, che il Pro 12 finalmente trova uno sbocco televisivo e dall'ultimo fine settimana di novembre si vedranno tutte le partite su Rai Sport 2, tutte le partite finalmente. Delle italiane. Finalmente. Quindi appuntamento il 24 novembre con Cardiff Ironi e il 26 con il Benetton che affronta i campioni d'Europa del Leinster. Sì, perché questa era abbastanza una bestialità che comunque tanto si è fatto per portare le nostre squadre in questo torneo e poi non le vedeva nessuno. Era una cosa veramente ridicola. Io ringrazio Giacomo Bagnasco e restituisco la palla a Giovanni Capuano perché abbiamo ancora un minuto per i finali. Allora io te li riepilogo perché sono finite tutte. Atalanta batte Cagliari 1-0, decide Dennis a 10 dalla fine, il Lecce vince a Cesena 1-0 all'undicesimo del secondo tempo in contropiede Quadrado, Chievo-Fiorentina 1-0, metà ripresa, gol decisivo di Rigoni, Lazio-Parma 1-0 nel finale Sculli, Milan-Catania 4-0 nel primo tempo, Ibrahimovic su rigore e Robinho nella ripresa, autorete di Lodi e Zambrotta, Udinese-Siena 2-1 nel primo tempo dopo 50 secondi basta nella ripresa al 19esimo di Natale e al 33 di un finale sofferto per i friulani, il 2-1 di Bolzoni, Udinese che è in testa alla classifica per quanto può contare essendoci quattro squadre con una partita in meno e tra queste la Juventus, comunque Udinese-Lazio a quota 21, Milan 20, Udinese 19, poi tutte le altre in coda da segnalare, la crisi della Fiorentina ferma a 12, quella di oggi potrebbe essere stata l'ultima di Mihajlovic, l'Inter che è ufficialmente terzultima ma ha una partita in meno, prosegue la crisi del Cesena, 3 punti in 11 partite. Perfetto, grazie Giovanni Capuano. Dunque Udinese e Lazio si ritrovano a braccetto in testa alla classifica dopo questa undicesima giornata di campionato del tutto provvisoria ancora, perché manca Genoa-Inter e perché manca Napoli-Juventus e la caccia alla data rischia di diventare un bel casino un po' per tutti, perché Bigon aveva buttato lì un 14 di dicembre, cosa impossibile perché il 12 dicembre, che è di lunedì, la Juventus gioca il posticipo di quella giornata contro la Roma e dunque certamente due giorni dopo non può giocare con il Napoli. Marotta, che è già avanzato una certa malizia napoletana sul rinvio di questa partita, in maniera nemmeno troppo velata per la verità, ha individuato il 30 di novembre, che è un mercoledì libero, disponibile sull'agenda, però si colloca all'interno di un periodo che per il Napoli è terrificante, perché presumibilmente sabato 19 di novembre il Napoli riceve la Lazio. Martedì 22 ha la partita della vita in Europa contro il Manchester City al San Paolo, quindi nel weekend successivo va a Bergamo con l'Atalanta, che partita semplicissima non sarà, e avrebbe appunto la gara con la Juventus il mercoledì successivo, che precede Napoli-Lecce e Villarreal-Napoli, che è un'altra gara che determinerà il destino degli azzurri in Europa. E dunque, come potete capire anche da soli, tutto questo rischia di diventare un bel casino diplomatico per l'appunto. Vedo che sta per parlare Massimiliano Allegri, che invece oggi ride, perché ha scavalcato la Juventus, che rimarrà ferma al palo visto questo rinvio, che si trova quarta in classifica. Il Milan invece ha passeggiato contro il Catania con questo 4-0, ha vinto subito il Milan, settimo con il gol su rigore di Ibrahimovic, primo rigore stagionale per i rossoneri, netto il fallo di Lanzafame su Robinho, e poi lo stesso Robinho al 24esimo ha sdraiato Bellucci, ha segnato con un bel diagonale, migliore in campo probabilmente il brasiliano Allegri, e poi i nostri ascoltatori che sono già in linea. Che hanno fatto ragazzi, anche perché sapevamo che poteva essere una partita difficile, poi è andato tutto in discesa perché i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico, dell'attenzione e anche dell'intensità, ecco, questo è un bel risultato prima di una sosta, per passare una buona sosta, visto che l'ultima non era stata molto bella. Diciamo che le tabelle sono state rispettate, oggi c'erano anche delle assenze, Boateng, Nocerino, Nesta, e c'era un Emanuelson trequartista. Sei stato un grande Ibra anche in fase di non possesso, anche come suggeritore, o sbaglio? Ma Ibra quando fa l'attaccante è bravissimo, quando fa il rifinitore ancora di più. E poi dopo, quando le punte lavorano in fase difensiva, quando non abbiamo la palla, aiutano tutta la squadra, ecco. Quindi questo è un altro passettino avanti che abbiamo fatto 5 vittorie, e dovevamo farle per risalire in classifica. Ora siamo in una buona posizione di classifica e quindi passiamo una buona sosta. Regalino per Cassano, una dedica, che è tornato a casa oggi? Ma sicuramente il primo pensiero che è stato fatto dopo la partita, perché quello che ha passato Cassano in questa settimana insieme a lui, tutti noi, non è stato piacevole, anche perché un ragazzo di 29 anni, indipendentemente dal ruolo che ha, sono sempre dei grossi pensieri, un grande dispiacere. Ora però sta bene, sorridente, e l'aspettiamo. Così dunque Massimiliano Allegri, che dice: passiamo una buona sosta. Vedo anche degli sms, ma Napoli-Juve non si può giocare domani sera? Non si giocherà domani sera perché evidentemente non ci sono le condizioni, la Juventus è già ripartita per Torino. Questo lo domanda un ascoltatore. Un altro ascoltatore, si chiama Paolo, scrive: la decisione è stata presa 8 ore prima della gara e solo il Napoli ha potuto partecipare al vertice, la Juventus è stata esclusa. Commenti da fare, li stiamo facendo insieme. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Tra poco vi racconto anche come è andata oggi sui campi, almeno dove si è giocato. Vi ricapitolo i tabellini, i gol e anche una classifica che, come detto, vede Udinese-Lazio a 21, Milan a 20 e Juventus a 19. Pierluigi da Bari, buonasera. Salve, buonasera. Dica. No, volevo intervenire riguardo la dichiarazione di Marotta, che sinceramente ho trovato un po' fuori luogo. Il calcio ancora una volta dimostra di essere un attimino fuori dalla realtà, perché quando c'è un morto, innanzitutto forse ci vorrebbe rispetto. Sì. Perché una persona, posso proprio, Carlo, portare una testimonianza diretta. Sì. Sono in macchina, sto tornando da Napoli per tornare a Bari, sono napoletano ma abito a Bari. Sì. E ti dico che stamattina era impressionante l'acqua che è caduta, i marciapiedi erano completamente sommersi dall'acqua. Quindi sai, la zona di Fuorigrotta è veramente già di per sé ha un sacco di sottopassi e situazioni del genere. Sì. Questa convinzione di Marotta poi di vincere già la partita, sinceramente l'ho trovata non so di vincere la partita, certamente la Juventus ha detto: noi siamo qui, siamo in testa alla classifica, stiamo bene, siamo in un buon momento, è piovuto molto forte, governo ladrissimo, però magari il Napoli ci ha messo del suo, perché dopo la sconfitta che ha portato, peraltro, e anche di questo parleremo, diverse polemiche in casa del Napoli, magari una domenica di riposo in pantofole senza prendere l'acqua per loro era meglio. Quindi Marotta ci ha messo questo pepe. Poi siamo sempre lì, certe volte diciamo e l'allerta, bisognava pensarci prima e quindi bisognava evitare di giocare. In altri casi si dice: beh, però aspettiamo un attimo e vediamo che succede, perché adesso magari a Napoli c'è il sole e la situazione non è più di emergenza. Beh, insomma, è chiaro che si tratta di capire. Stamattina le condizioni non c'erano ed è evidente che non sono decisioni che si possono prendere all'ultimo istante, quindi una certa tempestività quando si muove una massa così grande di persone. Tra l'altro oggi a Napoli è stato detto: evitate di uscire di casa perché la situazione è critica, quindi non è che questo non è che se ne è inventato Bigon, sono state condizioni di emergenza vere. Roberto da Modena, buonasera. Buonasera a tutti. Avevo solo una domanda da fare: come mai al Milan non gli danno quei rigori contro che tutte le altre squadre invece subiscono? Non capisco. Guarda, perché sul 1-0 c'era un rigore clamoroso. Guardi, adesso magari lo rivedo perché sinceramente mi è sfuggito. Io ho visto... Dica. Quest'anno quel tipo di rigore lì che tirano verso la porta e il difensore la prende con un braccio perché ha le braccia aperte, vengono fischiati tutti, meno che al Milan, non capisco, me lo dica lei. No, Roberto, io posso dirle poco perché sinceramente non ho visto l'episodio, quindi le posso dire pochino in questo momento, ma poi appena lo sintetizzano con le immagini di Sky magari riesco a vederlo e riesco a darle una valutazione. Io noto soltanto che comunque, Roberto, il Milan oggi ha avuto il primo rigore favorevole in tutta la stagione, 10 partite è tanto, No, indubbiamente, però quello lì sull'1-0 era clamoroso perché li hanno fischiati quasi tutti fino adesso, sì. Quasi tutti contro. Guardi, devo rivederlo e devo vedere come era posizionato l'arbitro e qual è la dinamica e poi le do una valutazione, perché sinceramente io sono qui nel frullatore, vedo un po' tutto e non vedo niente, quindi vado sulle impressioni. Quando vedo questo episodio le prometto che ci torno. Dell'altro? No, grazie. Va bene così? Fantastico, alla prossima. 800-24-00-24 è il numero verde. Non mi sembra il caso, però, una partita che il Milan ha, tutto sommato, ha vinto in carrozza come questa, andare su un episodio. Torno appunto a notare che questo era il primo rigore a favore dei rossoneri della stagione, ed era peraltro un rigore solare per un fallo da dietro di Lanzafame su Robinho, che stava calciando in porta. Tanto per dirvi di quanto è variegato il mondo delle opinioni, vi leggo soltanto alcuni dei tantissimi sms che mi sono arrivati in un minuto. 800-24-00-24 è invece il numero per far sentire la vostra voce. Ebbene, qualche sms. Mauro da Venezia: adesso diranno che un recupero fra Napoli e Juve metterà in crisi solo la Juve, il Napoli è stato avvantaggiato poiché il campo era a posto. Oppure un altro ascoltatore: è una vergogna, la partita si poteva fare in quanto non piove a Napoli, cosa importa che ci sia un morto per un incidente fortuito? Allora non facciamo mai giocare le squadre. Questo messaggio mi sembra fin troppo cinico, perché dire cosa importa se siamo morto è francamente una sciocchezza. Oppure un altro messaggio: è incredibile che si abbia da ridire su una partita rinviata, si vergognino e abbiano rispetto. Oppure ancora: Napoli-Juventus rinviata quando l'inviato di Sky alle 14.30 parlava da San Paolo con il sole alle spalle, solite decisioni prese all'italiana, complimenti, almeno non sentiremo più piangere De Laurentiis, e via discorrendo e via scrivendo. Questi i risultati sul campo oggi pomeriggio: l'Atalanta che ha battuto 1-0 il Cagliari con gol del solito Denis al 35esimo della ripresa, il Lecce che ha battuto il primo Cesena di Arrigoni 1-0, gran colpo quello del Lecce, il gol all'11esimo di Cuadrado con deviazione di Ceccarelli, pochi istanti prima il portiere del Lecce aveva fatto una parata straordinaria su un colpo di testa di Mutu, ma il calcio è così, e il Lecce tra l'altro ha giocato l'ultima mezz'ora in 10 per l'espulsione di Muriel. Il Chievo in guaia alla Fiorentina, e soprattutto in guaia Mihajlovic, che è sempre più in odore di esonero. Il gol segnato da Rigoni al 21esimo della ripresa, Rigoni che salta Boruzzi in uscita avventurosa quantomeno, è bastato un colpo di petto di Rigoni per saltare il portiere Viola e segnare a porta vuota. Importantissimo il gol di Scuglia al 40esimo della ripresa in un'azione di mischia dopo un salvataggio sulla linea, gol che permette alla Lazio di battere 1-0 al Parma e di agguantare l'Udinese in testa alla classifica. Udinese che ha regolato il Siena 2-1, basta segnato dopo mi sembra 53 secondi di gioco, dopo un rimpallo al 19esimo della ripresa. Di Natale ha saltato terzi, ha piazzato il gol del 2-0, poi la rete di Bolzoni per il 2-1. Il Milan ha dominato la partita con il Catania, segnando su rigore con Ibrahimovic dopo 7 minuti, al 24esimo con Robinho, al 24esimo della ripresa invece l'autorete di Lodi, e poi addirittura in gol Zambrotta Tapin dopo una respinta del portiere catanese in seguito ad un tiro di Aquilani. Andrei subito da Dario Ricci a San Siro per commentare un po' questa partita. Ciao Dario. Ciao Carlo, buonasera a tutti da San Siro. Beh, come eloquente il tabellino, un netto 4-0 per il Milan, partita che di fatto è durata 24 minuti, il tempo dell'1-2 siglato Ibrahimovic su calcio di rigore e poi la prima rete di Robinho, poi a riempire il tabellino appunto il raddoppio di Robinho, la tapina di Zambrotta in rete con la maglia rossonera dopo più di 3 anni, si è rivisto in campo anche Inzaghi nel finale. 12 minuti per lui e il tempo di sfiorare il gol, bravo, forse nell'unica occasione in cui si può usare questo aggettivo oggi per il portiere del Catania, Andukar, a negare il gol a Super Pippo, un Catania che ha fatto ben poco, ma che ha anche però protestato, forse ha ragione, per una deviazione di mano di Zambrotta su cross di Lanzafame sull'1-0, forse è stato rigore, Gervasoni non è stato di questo parere, forse la partita avrebbe potuto avere un'altra piega. Lo chiediamo a Franco Ordine, inviato del giornale. Beh, Franco, oggi un Milan stellare, direi, con Ibrahimovic in versione soprattutto da uomo assist, e c'è questo episodio, questo tocco di mano di Zambrotta, tanto per parlare subito di Moviola e poi andiamo ai contenuti. Poteva essere rigore secondo te? No, devo dire francamente no, perché l'hai visto in televisione, proprio gli sbatte la palla sul, cioè è la palla che va verso il braccio e non il contrario. Devo dire francamente che non, insomma, la partita complessivamente non offre destro per nessuna discussione, per nessuna polemica, nemmeno retrodatata. Il Milan mi pare che abbia fatto la sua partita, diciamo, ai suoi livelli. Quando lo si fa giocare a quei ritmi, il Milan ha pochi avversari, onestamente. Probabilmente anche il terreno deve aver aiutato il Milan a giocare, diciamo, a una certa velocità molto ridotta. Ha patito nel primo tempo quando, diciamo, sia Ambrosini che Seedorf non erano belli caldi e non erano in grado di avere una buona condizione fisica. Quando l'hanno raggiunta nel secondo tempo, devo dire che davvero non c'è stata partita. C'era curiosità anche per questa prova di Emanuelsson in versione trequartista, poi l'uomo assist in realtà è stato più Ibrahimovic, come d'abitudine. Sì, mi pare che, insomma, stia facendo un po' di apprendistato in questo nuovo ruolo. A me non è dispiaciuto, devo dire francamente, però forse c'è bisogno di un po' di altro e un po' di più, diciamo, dal punto di vista della sostanza per guadagnarsi, diciamo, non dico i galloni da titolare perché non sarebbe il caso, ma insomma per guadagnarsi il credito e la fiducia della squadra. Prima partita chiaramente senza Cassano, un Milan che tornerà sul mercato per colmare questo vuoto. Si parla anche di Maxi Lopez, beh, oggi è entrata a partita decisa, veramente ha fatto vedere poco. Quali potrebbero essere invece gli altri obiettivi raggiungibili a gennaio? Non so quali saranno gli altri obiettivi, non lo so. Certo, insomma, perché siano raggiungibili, io non credo che ci sia di mezzo Maxi Lopez. Perché siano raggiungibili ci devono essere una serie di condizioni, di precondizioni. La prima, che non ci sia un grande costo dal punto di vista economico. La seconda, che sia un giocatore utilizzabile sia in campionato che in Champions. E la terza, che abbia caratteristiche da potersi sposare sia con Ibrahimovic che sostituire Ibrahimovic come prima punta. Quindi mi sembra, ecco, una volta che hanno raggiunto queste caratteristiche, penso che faranno il punto e quelli del Milan, insomma, troveranno, non adesso, è una discussione, è una scelta che secondo me maturerà nelle prossime settimane. Insomma, l'avete sentito dalle parole di Franco Ordine, identikit, quanto Dario, mai difficile. Puoi chiedergli se ci crede a un Del Piero al Milan? Ecco Franco, ma tu ci credi a un Del Piero al Milan? No, detto molto sinceramente no, proprio no, specialmente poi da gennaio credo proprio di no. E magari il prossimo anno? No, non credo che rientri nelle opzioni possibili. Niente da fare, quindi Carlo, chiederei solo a Franco l'ultima battuta su un Catania che finora è stata la mazza grandi del campionato, oggi ha fatto vedere davvero troppo poco. Sì, un po' troppo arrendevole, secondo me è arrivata qui con un pizzico di presunzione, ha voluto giocarsela viso a viso con il Milan, doveva invece provare a difendersi un po' meglio. Grazie a Franco Ordine, inviato del giornale. Carlo, benissimo. C'è qualche altra curiosità? Va benissimo così, Dario, ci vediamo poi da queste parti, quindi abbiamo risolto la pratica Milan-Catania, compreso quel tocchetto in mano di Zambrotta, a cui un ascoltatore faceva prima riferimento. 800 24 00 24, il vostro numero verde. Tra l'altro ci sono un sacco di temi che sui quali mi piacerebbe tornare, al di là della pioggia che ha mutilato questa giornata di campionato, non senza polemiche, tra poco torneremo a sentirne. Già su Twitter, sulla nostra pagina Twitter, c'è Gianfranco che scrive: a Perugia si giocò, qui invece con il sole si sta fermi. Dov'è la coerenza? De Laurentiis e De Magistris sono dei furbacchioni. Questo secondo Gianfranco. Giorgio invece, sempre su Twitter: scelta assolutamente saggia. Un forte abbraccio a tutti gli amici in difficoltà in queste ore. Tra i tanti temi c'è anche quella dell'attacco della nazionale, perché praticamente in una settimana Prandelli, che sta per diramare convocazione per tornare in campo con questo doppio impegno in Polonia con l'Uruguay, dopo impegno amichevole naturalmente, dovrà reinventarsi l'attacco. Ne abbiamo parlato un po' ieri anche con Massimo Callegari e ci siamo trovati d'accordo su un'ipotetica coppia che a me piace molto, che potrebbe essere Pazzini-Barotelli, non so come la vedete voi. Torniamo però agli ascoltatori, 800 24 00 24, Gianfranco da Napoli e poi sempre da Napoli Massimo. Gianfranco, buonasera. Salve, buonasera. Io vorrei farvi fare anche i cronisti. Qual è la situazione in questo momento a Napoli? Chiamo proprio per questo, sono a passeggio con il cane per Napoli. Sì. Ci sono 20 centimetri d'acqua e decine di pattuglie della polizia, di vigili del fuoco, a presidio di sottopassi o zone comunque non praticabili. Il problema non è la praticabilità dello stadio, il problema è la viabilità esterna. Alcune stazioni della metropolitana sono chiuse. Poi la decisione l'ha presa il prefetto, no? Né il De Magistris né tantomeno il presidente. Sì, questo sì. Poi c'è la storia di questo sottopasso di accesso al San Paolo che comunque vengono quattro gocce e si allaga, giusto? È completamente allagato. Quindi Marotta ha detto questa cosa, ma non conosce Napoli evidentemente. Oppure la conosce molto bene, io non credo che Marotta non conosca Napoli. È chiaro che insomma si fanno i conti con dei problemi strutturali, che siamo qui, ma questo vale un po' per tutto, è una considerazione generale molto amara da parte mia. Diamo le cause ad eventi naturali, di fatti tragici come quelli che stiamo assistendo in questi giorni, quando le cause secondo me sono abbastanza umane e abbastanza riconducibili alla gestione delle strutture e delle infrastrutture di questo paese. Questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano e certamente fuori tema. Io sto rivedendo invece, per restare in tema, quel tocco di mano di Zambrotta su un cross dalla destra cui faceva riferimento l'ascoltatore e di cui si è parlato prima. Non mi sembra il caso di tornare su questi episodi, francamente. Massimo, Napoli, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Dica. Niente, io mi volevo riallacciare alle polemiche sulla posticipazione della partita, che mi sembra una cosa, una decisione ogni tanto che si prende giusto, perché alla fine il calcio la fa sempre da padrone. Dopo i fatti di Genova penso che... Ma è chiaro, perché in alcuni casi si dice ma si doveva pensarci, ci si doveva pensare prima, in altri casi come questo ma si poteva aspettare a vedere cosa succedeva, che poi magari viene il sole. Non credo sia il modo giusto per gestire le cose, no? Io sto tornando adesso dalla zona dello stadio dove purtroppo ho lavorato stamattina alle 7, anche io mi sono imbattuto in allagamenti. Portare 60.000 persone a Murigrotta, che insieme ad Agnano e Pozzuoli è stata una zona veramente martoriata, quindi penso che sia stata una decisione giusta. Secondo me, scusate la parola, è da cretini ora dire è stata avvantaggiata la Juventus, è stata avvantaggiata il Napoli. Mi sembra una cosa un po' fuori luogo. È comunque una partita di calcio. Io sono un tifosissimo del Napoli, anche io ci sono rimasto un po' male. Però vabbè, ci rifaremo la prossima volta. Massimo, la ringrazio. Buona serata. Stia attento. Grazie a Massimo da Napoli. 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce. Io intanto vi faccio sentire quella di uno dei due allenatori in testa alla classifica, cioè direi ai microfoni di Sky. Al di là delle più rose previsioni. Si fanno cattivi pensieri quando si sta lì? No, assolutamente. No, è meglio stare lassù. Anche se magari l'ho già detto altre volte, è meglio stare così vicino alle prime, a un 2-3 punti, senza mai perdere di vista magari le prime posizioni. Perché? Però come? Per il mal di quota? Perché sai, sei inseguito da tutti, mentre dal di dietro stai un po' più tranquillo. Vengono le vertigini, dice Massimo Mauro. Ma sì, un pochettino sì. Ma un gruppo solido, un gruppo che sa... sa le qualità che abbiamo e sa anche magari certi difetti. Adesso abbiamo migliorato ultimamente anche la fase difensiva, anche se oggi abbiamo faticato oltre misura perché non eravamo freschi come in altre circostanze, si pressava male, arrivavamo sempre dopo il Parma c'ha buoni giocatori soprattutto in contropiede, ci ha creato qualche difficoltà e noi non riuscivamo a ripartire perché le energie purtroppo dopo questo ciclo di partite infrasettimanali tra UEFA abbiamo speso moltissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Ha speso anche lei Reia. La classifica che dice: Udinese Lazio 21 punti, Milan 20, Juventus 19, Palermo 16, Napoli, Roma, Catania 14, Siena, Cagliari 13, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Chievo e Parma 12 punti, Bologna 10, al terz'ultimo posto, è incredibile leggerla così, l'Inter e il Lecce con 8 punti, quindi Novara 7 e Cesena 3 punti. C'è un ascoltatore che domanda: l'allenatore della Fiorentina sarà cacciato, Mihajlovic naturalmente, sarà cacciato già stasera o Della Valle gli farà passare a nuttata? Non gli farà, io credo, passare a nuttata, perché era in bilico e credo che alla Fiorentina insomma fosse chiara la situazione. Credo che Mihajlovic, che tra l'altro ha avuto diversi screzzi anche con l'ambiente viola, con la tifoseria viola, sarà sollevato dall'incarico e già si dice che potrebbe essere già su un treno degli Orossi per la panchina viola. Però queste sono tutte indiscrezioni, almeno per il momento. Di nuovo ascoltatori, 800 24 00 24, perché la domenica soprattutto la domenica i veri protagonisti sono loro. Mario da Napoli, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, volevo solo avere una piccola delucidazione su quanto detto prima in diretta da vostro giornalista, credo. Sì. Per quanto riguarda il presunto rigore non assegnato al Catania. Al Catania. Sì, allora, che differenza c'è? Come ho sentito che era stato il pallone che ha battuto sulla mano di Zambrotta e non la mano di Zambrotta che ha battuto sotto. Cioè, in termini di regolamento, cosa cambia? Boh, nulla. Cambia nulla. Allora è rigore. Cambia nulla. Zambrotta salta non guardando la palla, con le braccia larghe. Il rigore si può dare, però Mario, se stiamo a si poteva dare rigore eccetera eccetera eccetera, però mi pare una partita che il Milan ha vinto, una partita vinta 4-0. È vero che nel calcio tutto può cambiare, però non mi sembra il caso di dire che questo episodio ha cambiato qualcosa, ecco. No, io non ho detto questo, io ho detto solo, siccome sì, ho sentito dire che il pallone è stato il pallone lana caprina. Insomma, alla fine mi sembra un po' troppo di parte questo giornalista. Sarebbe meglio dire magari il Catania avrebbe perso 4-1, sicuramente grande Milan vincerà lo scudetto, sì, e compagnia. Beh, però insomma, trasformare un rigore non dato quasi una giustificazione per dire che il colpevole è stato il pallone che ha battuto sulla mano, sì, di il pallone... mi sembra un poco, francamente io mi seguo da tanto tempo, seguo lei, che lei è una persona veramente, anzi le faccio i complimenti, lei è... non è caso, però insomma, ripeto, sono quei rigori su cui discutiamo per mille anni, no? Anche se io su due cose divento abbastanza matto, questi rigori con le braccia larghe, la palla che arriva, non guardi la palla, cioè non c'è uniformità di giudizio, non ci sarà mai. Queste situazioni mi sembrano inestricabili e quindi tenderei a, lo sto rivedendo in questo momento, la Zambrotta che deve fare? Che deve fare? Ha le braccia larghe, dovrebbe tenere le braccia lungo il corpo, però sta provando a saltare per ostacolare quel cross. Guardate, non saprei. Tenderei a fidarmi della valutazione arbitrale in casi come questo, e sono cose che mi appassionano davvero poco. E per quanto riguarda l'altra cosa che mi fa abbastanza imbestialire, anche oggi abbiamo avuto un esempio in Atalanta-Cagliari, questa storia del pallone fuori, perché quando c'è un giocatore per terra, allora da noi è matematico mettere il pallone a lato. Ma in che film? Poi andiamo in Europa e ci lamentiamo, ma perché non si gioca in questa maniera? L'abbiamo detto mille volte, c'è un arbitro che deve interrompere il gioco. È chiaro che se c'è un infortunio di una certa gravità i giocatori sono i primi a capirlo, e quindi a quel punto doverosamente fermano la partita se magari l'arbitro non se n'è accorto, altrimenti secondo me si va avanti a giocare. Comunque, Marco da Foggia, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo chiedere, dato che il Milan adesso ha avuto una grande crescita in campionato, farà bene questa pausa che ci sarà per le nazionali al Milan? Insomma, è chiaro che quando vai bene preferisci andare avanti a giocare, Marco? Però è altrettanto vero che il Milan ha un'età molto avanzata, è una squadra vecchia, e quindi secondo me può essere utile, Allegri lo sa benissimo, tirare il fiato e allenarsi in maniera un po' diversa. Quindi io credo che le pause al Milan facciano bene per principio quando hai una squadra di età così avanzata. Comunque vanno in nazionale, questo è vero, vanno in nazionale quando non salta fuori qualche infortunio, quando insomma, quando li lasciano andare, me lo faccio dire, quando la diplomazia non si mette a lavoro e non comincia a dire no, ma questo Ibrahimovic è squalificato, facciamolo tornare a casa. Sono molto bravi al Milan in quest'arte diplomatica, cosa che accadeva anche all'Inter ai tempi di Mourinho, ce lo ricordiamo bene. Però ripeto, secondo me per una squadra così anziana come il Milan, che è impegnata ogni tre giorni, le pause credo siano manna per Allegri. Dell'altro? Sì, Marco, volevo chiedere, prego, anche. Senta, ma lei come lo vedrebbe Del Piero al Milan? Le piacerebbe Del Piero al Milan? Perché guardi, Del Piero secondo me è un grande campione, farebbe piacere a un milanista come me sicuramente averlo in squadra, però è una bandiera e secondo me dovrebbe ritirarsi e basta, chiudere lì e togliere il numero 10 dalla Juve. Ho capito, però se lui vuole andare avanti a giocare, perché l'ha detto, in questo schiaffetto a distanza di tempo alla signora, non lascerò che altri decidano per me, quindi non mi vogliono più, scade il mio contratto, però io continuerò a fare il giocatore, ha detto. Capisco l'attaccamento al calcio, però non so, io lo reputo un grande campione, però per me dovrebbe fermarsi qui, perché la sua storia l'ha scritta già e ne siamo fieri noi italiani, anche se sono milanista. Sì, sì, io volevo chiedere anche, dica. Il Milan ha un terzino che è, secondo me, il terzino italiano più forte al momento, che è Abate. Come mai non viene chiamato mai in nazionale? Io sono d'accordo con lei, questo bisognerebbe chiederlo a Prandelli, perché sinceramente io non lo capisco. Non, in un ruolo in cui a livello internazionale c'è penuria di giocatori, perché è un ruolo scoperto, ma a livello internazionale, ripeto, non ci sono in giro grandi difensori di fascia con quelle caratteristiche. Abate, che è uno che già l'anno scorso aveva giocato una grande stagione, è uno che ha avuto la bravura e l'intelligenza di reinventarsi in un ruolo che non era suo, perché Maggio è più forte, mi scrive il napoletano Giorgio De Luca dalla redazione. Maggio è più forte, sì, può essere più forte, però poi vediamo chi è titolare. Però io sinceramente un giretto di Abate in maglia azzurra non lo vedrei male, anche perché mi sembra un giocatore che molto bravo a crossare in corsa, come più di Maggio, lasciamelo dire, caro Giorgio De Luca. Michele da Varese, buonasera. Buonasera, salve, sono Michele da Varese. Dica. Volevo intervenire a proposito della sospensione della partita Napoli-Juventus. Sì. Secondo me è una cosa un po' scandalosa, nel senso che queste cose purtroppo sembrano che succedano soltanto quando magari il Napoli ha giocato il mercoledì in Coppa col Bayern poi non vogliono giocare la domenica con la Juventus. Ho capito, Michele, però se si allaga la città, perché l'emergenza era vera, cioè non è che se l'ha inventata Mazzarri questa storia, insomma l'emergenza era vera e l'emergenza sussiste tuttora, quindi lei la pensa un po' alla Marotta, cioè legge una certa malizia nel rinvio di questa gara, però insomma l'emergenza a Napoli è vera, cioè il discorso realistico sarebbe di domandarsi perché piove per una notte e non si può e una città italiana viene allagata, perché si conoscono questi problemi e andiamo avanti a parlarne ad ogni acquazzone. Questo è il discorso vero da fare, però se la città è allagata e non ci sono le condizioni per muovere 80.000 persone e portarle in condizioni di sicurezza allo stadio, io credo che il Napoli e Mazzarri su questo c'entrino poco, no? Sicuramente c'entrano poco, però da quanto si apprende soltanto gli spogliatoi sopra San Paolo erano allagati, il campo era civile. Infatti non è una questione di campo, non è una questione di campo più che e nemmeno tanto di spogliatoi. Già gli spogliatoi allagati mi sembrano una ragione sufficiente per dire. Secondo me 10 ore prima, se uno è avvisato che lo spogliatoio è allagato, si può pulire e l'acqua si può portare fuori tranquillamente. Se la cosa succedeva a Milano, no, sicuramente non sarebbe, la partita si sarebbe giocata. Una cosa del genere non può succedere né a Milano né a Napoli né in nessun altro posto civile, secondo me, cioè che condizioni di maltempo di una notte portino all'impossibilità di circolare liberamente, al di là del fatto della partita. Però più che una questione di spogliatoi mi sembrava una questione di vie d'accesso, di zona dello stadio che era impraticabile. Allora sarebbe stato folle dire giochiamo lo stesso, lo spettacolo va avanti, però arrivata al San Paolo come vi pare, con le barche, con le canoe, con gli stivali, insomma la zona era impraticabile, lo era questa mattina, ed è chiaro che è una decisione che non si può prendere all'ultimo istante, perché sennò si crea ovviamente un pandemonio, come potete immaginare. Insomma, anche prima guardavo foto del disastro di Genova con un titolo, ma non tutto questo, un ammasso di macchine, un groviglio di automobili trascinate dall'acqua, tutto questo non si poteva prevedere. Insomma, allora che dobbiamo fare? Le condizioni di accesso allo stadio San Paolo per 80.000 persone non c'erano. Poi è chiaro che può esistere della malizia da parte di Marotta, da parte di qualche juventino eccetera, però francamente mi sembra un po' fuori luogo questa malizia. C'è chi prende la calcolatrice e fa somme aritmetiche dell'età dei giocatori, scrivendo che il Milan è la sesta squadra per anzianità in Italia dopo Juve, Inter, Roma, Lazio. Come fa a dire che è una squadra vecchia? Perché è una squadra vecchia nella sua anima, colonna vertebrale, direi, basta guardare la formazione di oggi in maniera del tutto casuale, con ultra trentenni che sono abbiati, Zambrotta, Seedorf, Ambrosini, Ibrahimovic e Robinho non sono più freschissimi, insomma non possiamo dire che il Milan sia una squadra di primo pelo, è chiaramente una squadra anziana nei suoi interpreti principali, non certo nell'età anagrafica complessiva della rosa. Prima di Aldo da Napoli, un altro allenatore primo in classifica come Guidolin, che tra poco parlerà con Sky. Sentiamo. La palla è per Dottor Di Natale. Gli stanno facendo rivedere i gol, tanto per rendergli dolce la serata insieme al primato. Allora Aldo, buonasera. Buonasera, mi scusi, non la sento benissimo. Io, sì. Io la chiamo perché vorrei sottolineare una cosa alquanto sgradevole, a mio avviso un razzismo strisciante, sì, di questi interventi assolutamente fuori luogo che sostengono la parzialità della sospensione della partita del Napoli. Ah. Perché nel tessuto sociale di Napoli, a detta di queste persone, c'è la camorra, la malevita che insita in ogni azione che viene fatta. Aldo, mi sembra una lettura un po' troppo ampia questa. Il signore di prima ha sostenuto che a Milano nelle stesse condizioni non sarebbe avvenuto ciò. Lei ha detto che il signore che sosteneva prima che il Napoli ha fatto questa furberia, probabilmente la conosce troppo bene la realtà di Napoli, l'ha detto, sono sue parole. Quindi io direi, no, mi rifiuto di pensare che Marotta non conosca bene la realtà di Napoli, ma la realtà nel senso di la situazione strutturale di Napoli, non la napoletanità tout court, non sto dicendo queste cose. Se lei dice che lui sostiene ciò perché conosce troppo bene, avalla la tesi. Ma quindi non capisco perché questo accanimento continuo, che sono 150 anni, siamo stanchi. Allora, sì, la partita non si è fatta perché non si è potuta fare, decide il prefetto, come lei giustamente, sì, ha sostenuto, ma credo che voi come giornalisti, come persone di informazione, dovreste assolutamente sottolineare che i napoletani sono stanchi di sentire queste cose. No, io credo, Aldo, però mi perdoni, i napoletani saranno anche stanchi di avere delle strutture impraticabili dopo una notte d'acqua, perché quel sottopassaggio io non conosco bene tutte le vie d'accesso al San Paolo, però non esiste che piove una notte e ci sono in giro 10 centimetri d'acqua ancora adesso. Non ho dubbi sul fatto che fosse impossibile, ed è stata corretta secondo me la decisione, al di là della malizia di Marotta, che torno a ripetere considero fuori luogo e non faccio nessun sottinteso, però la domanda vera è: accettiamo questa situazione a Napoli? Accettate questa situazione? Vi va bene così? Certo, proprio per questo la chiamo, per dire che sono tutta una serie di disagi, noi non abbiamo uno maxi schermo. Però questo non deve far sì che persone che non conoscono la realtà di Napoli, sì, trasformano una problematica sportiva, oltretutto una decisione del prefetto, sì, accusando la popolazione, il sindaco, il presidente Napoli, in maniera immotivata, come se, non so se ricorda il tifo Atalanta che disse noi non siamo napoletani, che andiamo come... Sono delle cose che quotidianamente, certo, vengono dette e creano un luogo comune. Sì, anche se, torno a ripetere Aldo, secondo me non è il caso di leggere in queste dichiarazioni tutto quanto lei legge. Ci sentiamo dopo con altri ascoltatori, perché adesso ho un ospite importante in onda, che è l'allenatore del Bologna, Stefano Pioli, che saluto e ringrazio. Buonasera, mister. Ciao. Buonasera. Ciao. Deve essere stata una passeggiata strana quella di ieri verso l'altra panchina, o no? Sì, no, devo dire con tutta onestà che insomma è stata una serata particolare, inevitabile che ci siano state delle emozioni, delle sensazioni particolari, però soprattutto nell'ingresso pre-partita, insomma, poi dopo chiaramente, dopo quando è cominciata la partita, è stata una partita purtroppo per noi che ci ha visto fare qualche errore di troppo, e per il Palermo bene, perché ha saputo sfruttare i nostri errori, anche se la prestazione della mia squadra penso sia stata una prestazione, sì, abbastanza positiva. Infatti sono stato molto sorpreso, perché siete in un gran momento, state giocando molto bene. Noi volevamo dare continuità, anche perché comunque sapevamo benissimo che dopo due vittorie confermarci su un campo difficile come Palermo ci avrebbe dato grande fiducia e grande positività per il nostro futuro, e poi perché comunque arrivava la sosta, quindi è sempre molto importante fare risultati positivi. Purtroppo non ci siamo riusciti, è chiaro che dobbiamo lavorare molto sui nostri errori, però vedo che la squadra sta bene, la squadra lavora con grande intensità, ci crede, quindi sono fiducioso, anche se visto il campionato talmente equilibrato, visto comunque il fatto che abbiamo fatto troppi pochi punti nelle prime giornate di campionato, la classifica è quella che è, ma abbiamo tempo per provare a venirne fuori. Lisa, stiamo polemizzando su questo rinvio, di Napoli-Juventus. Marotta ha letto malizia in questa decisione, secondo me in maniera un po' inelegante, mettiamola così. Ma io chiaramente da uomo di sport mi auguro che sia stata solamente una decisione presa veramente per l'impossibilità di far affluire comunque gli spettatori a San Paolo e che non ci sia sotto nessun'altra situazione, quindi credo proprio che il Napoli Calcio non abbia bisogno di trovare queste vie d'uscita, anche perché sinceramente anche io stamattina quando ho preso la notizia sono dispiaciuto, perché già la gustavo da vedere, perché sarebbe stata una grande partita, quindi solamente dispiacere, ma mi auguro che sia tutto lì. Ti chiedo un'ultima cosa, mister. Prandelli deve reinventarsi totalmente l'attacco. Ieri si discuteva da questi microfoni. Ebbene, io ti dico un mio gusto, una mia opinione. Pazzini Balotelli è la coppia che mi piace di più. Secondo me è una coppia molto ben assortita, perché Pazzini è senz'altro una punta di riferimento, un centravanti che è molto forte dentro l'area, molto forte sull'attacco alla porta dai traversoni laterali, e invece Balotelli è un attaccante che ha tutto, che ha qualità, che ha forza, che ha inventiva, che ha colpi, e quindi senz'altro penso sulla carta è una coppia molto ben abbinata. Poi dopo poi quelle che possono essere le risposte del campo a volte poi sono possono diverse essere, da quello, possono essere diverse. Grazie mister, bocca al lupo, buon lavoro. Grazie come sempre a Stefano Pioli, nostro ascoltatore tra l'altro. Dichiarazioni dell'esonerando, non ancora esonerato, Sinisa Mihajlovic: non dipende da me se resto o me ne vado, ho la coscienza a posto, sono sereno, poi deciderà la società. Oggi i ragazzi hanno fatto bene, abbiamo dominato dando il massimo, peccato perché siamo stati penalizzati dalle tre sostituzioni forzate, è una sconfitta immeritata, ma nel calcio funziona così. Non ci sta girando bene, dice Mihajlovic, che è molto molto molto in bilico, tanto che gira già il nome di Delio Rossi come possibile sostituto. Io torno molto volentieri a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde. C'è un ascoltatore che invece scrive via sms 349 238 6666 a proposito del discorso che pochi minuti fa stavamo facendo con Stefano Pioli, allenatore del Bologna, così ipotizzando una nuova coppia offensiva per la nazionale, visto che quella che Prandelli aveva promosso a titolare, cioè Cassano Giuseppe Rossi, è stata distrutta dagli eventi e dalle sfighe, dagli infortuni, dalle circostanze. Ebbene, io dicevo Pazzini, Balotelli, che a me piace molto. L'ascoltatore scrive: anche Matri, Balotelli non sarebbe male. No, non lo sarebbe, caro ascoltatore anonimo. Michele, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sì, volevo dare un piccolo contributo, visto che sono a Napoli, però non sono tifoso del Napoli. E diciamo che insomma fino ad oggi c'è stato un bel sole e le strade non sono sono impraticabili, no, però diciamo che ci sono delle pozzanghere. Adesso io veramente lo stato di allerta non riesco a vederlo, cioè le do, guardi, le assicuro. No, ma anche io ho visto tante immagini di una Napoli piena di sole nel pomeriggio, Michele, però qual era la situazione della viabilità, la situazione dell'ordine pubblico questa mattina? Sappiamo che c'era comunque, erano stati annunciati problemi anche in serata, poi il tempo e il vento hanno cambiato orientamento. Non dimentichiamo che la macchina organizzativa di una partita non è solo una questione di poche ore, è una questione di, soprattutto in una partita così delicata anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, una partita così importante, una partita che muove così tante persone e che coinvolge così tante persone dal punto di vista organizzativo. Ricordiamo che è una macchina molto complessa. Forse diciamo che dalle previsioni, insomma, dagli organi competenti, cioè non vorrei che fosse stata sfruttata diciamo sull'onda emotiva, e questo sarebbe veramente grave, fosse stata sfruttata una situazione di questo tipo. Ma per, sfruttata per non, no Michele, sfruttata non lo so, certamente no, neanch'io, è un dubbio, cioè, però no, diciamo che la malizia, cioè non è questione di pregiudizio, perché lo, magari lo potevano fare anche qualsiasi altra squadra, però non vorrei veramente, sarebbe veramente grave se fosse stata sfruttata, diciamo, quest'onda emotiva per interessi. Ma io credo che, io credo comunque che il prefetto di Napoli, l'autorità di Napoli non, non si prestino a questi giochetti, cioè mi rifiuto di pensare che a un tipo di accordo di questo genere. Pertanto è evidente che la situazione che si è venuta a creare in questi giorni in Italia, e quindi questa onda emotiva, questa massima attenzione, questa estrema attenzione, sia stata una delle componenti in gioco, no? Questo senza dimenticare che, per l'appunto, come dicevo prima, non è soltanto questione di aspettare e vedere come va, perché la macchina organizzativa di una partita come questa e i pompieri, il servizio d'ordine, tutto quanto ci sta intorno a una partita di questo tipo, si muove alla mattina presto, non si comincia a muovere alle 4, alle 5 del pomeriggio. Laura da Roma, buonasera. Buonasera. Io da estranea, insomma, né del tifoso del Napoli, della Juve, mi permetto di osservare, ma magari sbaglio, che le dichiarazioni di Marotta le considero una piccola caduta di stile, insomma, visto quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, quello che è successo anche nella Genova, nella sua Genova, quindi magari una prevenzione eccessiva è preferibile, è auspicabile, perché non sappiamo mai quello che può succedere. Brava. Avrebbe potuto essere un tantino più elegante. Tutto qua, grazie. Laura, bravissima, sono d'accordo con quanto dice, infatti... Sono state dichiarazioni certamente un po' fuori luogo. Torno a ripetere, è una situazione molto, molto complessa, se vogliamo anche grottesca, perché è stata presa la decisione di questo rinvio e poi è spuntato un sole meraviglioso, e se guardiamo le immagini dello stadio al pomeriggio, viene da dire, ma perché non si gioca? Torno a ripetere però che l'organizzazione di una partita di questo tipo non è un gioco da ragazzi. E evidentemente c'è stata da parte dell'autorità anche la preoccupazione di evitare insomma situazioni peggiori. Non è inutile nascondere che quanto è successo, torno a ripetere, in questi giorni ha consigliato, diciamo così, alle autorità la necessità di non prendere nemmeno un filo di rischio, e in questo è difficile non essere d'accordo. Quanto alle dichiarazioni di Marotta, in effetti in un momento come questo non sono state poi elegantissime. Altra ascoltatrice, 800 24 0024, con particolare piacere saluto Elena da Napoli. Pronto, eccoci. Eccoci Elena. Buonasera, no, io sono in viaggio da Napoli verso Roma. Sì. e portavo solo la testimonianza che a Napoli ha piovuto ininterrottamente dalle 4 di questa notte, insomma mattina presto, fino all'una. E non siamo riusciti ad andare neanche stamattina perché le strade erano un lago. Io ero a Pozzuoli, che è a due passi dalla zona stadio, quindi quando sento certe cose un pochino mi viene la rabbia, perché veramente poi con tutto in questo periodo, con tutto quello che si sente, forse viva Dio che un pochino di precauzione ogni tanto si prende, insomma. Sì. Ecco, tutto qua. No, tutto qua ed è già tanto, mi sembra, Elena, perché mi pare che gli ultimi due interventi, non a caso di gentili ascoltatrici, siano stati i più assennati nell'intero coro. Quindi credo che la linea guida debba essere questa: se c'è stato un eccesso di zelo in un momento come questo, ben venga l'eccesso di zelo, e se qualcuno ha pensieri impuri, vabbè, se li tenga e magari non li esterni poi neanche tanto. Qualche parola di Mihajlović con Sky. Loro sicuramente sapranno quello che dovranno fare, non, come ho detto, sono sereno, ho la coscienza a posto e vado avanti per la mia strada, poi quello che succederà. Così Sinisa Mihajlović, dunque, dopo la sconfitta di oggi che potrebbe costargli la panchina. Gli italiani sono sempre pronti a criticare se si previene allarmismo, altrimenti è menefreghismo, eterni scontenti. Io sono scontento perché continua a dire: vivo in un paese in cui piove dalle 4 di notte all'1 del pomeriggio e una città viene allagata. Non sono scontento perché una partita di calcio del cavolo viene rinviata. Questo è il senso del discorso. Salvatore da Milano, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda, signor Genda. Dica. Ma eventualmente la partita poi si sarebbe svolta, è sempre un eventuale, poi che ne so, tipo come è successo a Genova, che ricorda tutti in 19 minuti è successo il finimondo. Chi se la prendeva la responsabilità? Il signor Marotta, che non perde mai l'occasione per dimostrare poi effettivamente da quello che pensa, quello che fa e quello che dice sono, è sempre discordante. Solo questo volevo dire, cioè pure queste persone che chiamano e dicono Pietro ci vedono della malizia, delle cose, cioè, ma ci rendiamo conto che quella città in questo momento ha vissuto un problema? Difatti anche di alcune strade sono proprio vietate all'accesso delle auto private, sì, eccetera. Sì. Sì, sì. Cioè è un fattore oggettivo, ma per quale motivo bisogna per forza vederci della malizia dietro una cosa che peraltro non ha deciso il Napoli Calcio, ma l'ha deciso il prefetto, che non è proprio precisamente un, diciamo così, un dipendente di De Laurentiis. Non è un dipendente di De Laurentiis. Anche queste persone, quel signore che chiama da Modena, ma il San Paolo non è come, voglio dire, quando gioca in Modena, senza offesa per Modena, insomma, le rossa. No, ma si muove un'enorme quantità di persone, questo è già stato detto, Salvatore, si muove un'enorme quantità di persone e devono essere prese delle decisioni in maniera tempestiva. Penso che la penso come lei, al prefetto probabilmente poco importa del Calcio Napoli o della Juventus o di queste cose, importa molto invece il fatto che c'era il timore di garantire, cioè di non riuscire a garantire le condizioni minime necessarie, più che minime, di sicurezza quando si svolge un evento che muove una quantità così elevata di persone. Detto questo, la prossima volta saremo qui, se pioverà di domenica, saremo qui di nuovo a domandarci ma perché si allagano in due ore, si allagano tutte le strade che portano ad uno stadio, perché alla fine possiamo girarci intorno finché vogliamo, se non era il giorno di Napoli-Juventus si allagava tutto quanto e noi eravamo qui a parlarne nemmeno con questi toni e Marotta nemmeno ci pensava alle strade che portano al San Paolo. Vedo un giocatore capolista ai microfoni di Sky ed è Pinzi dell'Udinese. Vanessa Leonardi, Vanessa. Visto che è Spavaldo, magari lui ce lo dice, insomma, questa intanto due settimane siete primi in classifica e ve lo godete, immagino, questo primato, le sensazioni che hai, e poi fino alla fine si lotterà per lo scudetto. Beh, finché dura va bene, sappiamo che forse noi non c'entriamo niente lassù, però è bello, siamo lassù, guardiamo tutti dall'alto verso il basso e come ho detto, finché abbiamo questa condizione va tutto bene, abbiamo Di Natale che è magnifico, come tocca palla fa gol, tutta meraviglia e continuiamo così, noi abbiamo una piazza fantastica dove possiamo lavorare sereni, nessuno ci mette pressioni e forse questa è un po' la nostra forza. Ma perché non c'entrate niente, però state sempre lassù, c'entrate come invece? Noi zitti facciamo un po' i vaghi così ci snobbano un po', no, fare scherzi. Sappiamo che il Milan sicuramente tornerà su, la Juve è una grande squadra, quindi noi viviamo così, viviamo tranquillamente, è tutto un fieno in cascina. Senti, questo è Pinzi dell'Udinese, un Udinese magnifica che vive il suo sogno finché dura, secondo me non durerà fino a maggio quando si assegnerà lo scudetto, però è un mio pensiero, anche se tifo Udinese naturalmente, sarebbe bellissimo vedere una squadra così campione d'Italia, però insomma tanti sogni sono belli, non necessariamente si realizzano nel calcio di oggi, è molto molto difficile che questo possa capitare. Credo che Paolo, nostro ascoltatore, abbia informazioni errate, perché scrive: non l'ha deciso il prefetto, c'è stato un vertice in cui ha partecipato anche il prefetto con la società Napoli e il sindaco. Decisioni di questo tipo non le prende una società di calcio, caro Paolo. Altro Paolo, provincia di Napoli, invece in linea, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono in viaggio di ritorno da Napoli. Mi abbassi la radio però per favore, se no non sento, grazie. Sono in viaggio di ritorno da Napoli, sono partito ieri sera alle 11, sono arrivato stamattina alle 7:30, di luglio, fino alle 12:30, che poi è uscito il sole, ma ho fatto un giro 3-4 volte oggi pomeriggio e ho visto pochissime pozzanghere. Mm. Ho chiesto ai carabinieri. Ma stamattina com'era la storia? Ma stamattina era, ho fatto dei video, era, c'era, sì, c'era parecchia acqua. Mm. Stamattina però. Sì. Io vorrei solo capire che adesso sto tornando di nuovo a farmi 11 ore, praticamente in un giorno ho fatto 24 ore di viaggio. Vorrei sapere il vero motivo che non si è giocata questa partita. Beh, Paolo, 24 ore di viaggio, un viaggio molto lungo l'avrebbe fatto comunque, quindi insomma è chiaro che per seguire una partita per la propria squadra si fanno molti chilometri, in maniera che personalmente capisco poco, però questi sono gusti personali. Non si è giocata questa partita perché in giornata il prefetto e le autorità hanno deciso che hanno capito, hanno verificato che non c'erano le condizioni per far partire l'apparato organizzativo di questa gara, che non poteva naturalmente partire nel tardo pomeriggio quando le strade si erano asciugate. Stamattina c'era una situazione di estremo disagio e dunque è stato deciso in questo senso. Io poi posso capire la rabbia di chi ha fatto tanti chilometri come lei per andare a Napoli a vedere la Juventus, ma questo insomma non c'entra il Napoli Calcio, cioè sul fatto che ci sia stata questa inondazione credo che il Napoli Calcio non c'entri nulla, così come non c'entra nulla il Milan sulla nebbia del Maracanà di Belgrado molti anni fa. Luca, provincia di Monza, buonasera. Buonasera, telefonavo appunto per chiedere se è possibile di smettere di continuare a commentare questa decisione di un prefetto, di una persona competente in ambito di situazione sociale, di situazione del posto, perché è il prefetto di Napoli, quindi piantiamola lì, parliamo di calcio, perché se è stata presa questa decisione è stata presa con le dovute verifiche, sì. Quindi basta, è inutile fare questi discorsi anche dell'uomo Marotta che pare, io non ho sentito le parole, però ho sentito che lei se vuole gliele rileggo. Vuole che gliele legga? Sì, prego, grazie. Le rilego subito. Allora, Marotta ha detto: gli ordini dell'autorità prevalgono come giusto sull'interesse sportivo. Poi aggiunge: siamo dispiaciuti perché avevamo preparato a fondo questa partita e siamo in un buon momento di forma, reduci da una bella vittoria. Il Napoli, che ha partecipato al vertice, avrà certamente avuto qualche elemento in più per aiutare le autorità nell'analisi. Il finale è abbastanza disgustoso e basta. Sì. Disgustoso l'ha detto lei, inopportuno lo aggiungo io e possiamo andare avanti con gli aggettivi, no? Anche perché veramente davanti a quanti siamo arrivati con i morti tra Liguria e Campania, quanti? Sì, sette? Fosse anche uno sarebbe uno di troppo. Esatto. Oggi a Napoli è morta una persona, è caduto un albero su una macchina, insomma. Benissimo. Quindi se non situazioni... ci sono le voglio dire, il calcio bisogna capire che non è la cosa più importante di questo mondo, di questo paese, perché nel resto del mondo hanno degli altri obiettivi nella vita. Certo. Quindi è ora di finirla. Certo. Perché anche perché poi andare allo stadio e vedere quello che succede negli stadi. No, però però Luca, non andiamo fuori strada, era partito bene. Quello che succede negli stadi va bene, però il discorso vero è che è difficile accettare una situazione come quella italiana, in cui oggi ce ne accorgiamo perché, lo dicevo prima, c'è Napoli-Juventus la sera, questa partita è stata rinviata, però Non esiste, ma questo a Milano come a Genova, come in tutte le città italiane che stanno facendo i conti con questi disagi, e poi diciamo colpa del tempo fino a un certo punto molto basso, secondo me colpa di chi non gestisce situazioni di emergenza che sono ormai croniche, quindi se pioveva di lunedì e non c'era Napoli la sera, quelle strade, quei sottopassaggi, quelle zone si allagavano non eravamo qui a parlarne, perché e nemmeno Marotti era qui a parlarne, questo è. Luca, la ringrazio molto. Giovanni Milano, buonasera. Se poi c'è anche qualcuno che vuole parlare di pallone, oltre che di tempo, di meteo, di strade allagate, volentieri, volentieri. Buonasera Giovanni. Parliamo di calcio, appunto. Dica. Complimenti per la trasmissione. Ascolti, io vorrei protestare calcisticamente parlando, nel senso che il Napoli l'anno scorso, se puntava all'Europa League, la vinceva. Quest'anno, se puntava allo scudetto, vinceva. così decisivo, così deciso, mi sembra tanto. La vinceva, no, vediamo. No, ma nel senso, risparmiava le energie l'anno scorso contro il Milan, ah, e puntava l'Europa League, la vinceva o comunque andava in fondo. E quest'anno idem, ha perso tanti punti in campionato per la Coppa dei Campioni. Mm. E quest'anno era l'anno buono per puntare allo scudetto. Non va. Il Milan partiva male. Mm. Ecco. E poi per quanto riguarda il Milan, se secondo me non è questa grande squadra. Beh, insomma. Il corso ha vinto il campionato solo perché era senza concorrenti. E infatti in Coppa dei Campioni contro gli inglesi fuori. Mm. Quest'anno. Allora, Giovanni, secondo me il Milan è la squadra più forte d'Italia, ma anche con un discreto margine di vantaggio sulle inseguitrici, si potrebbe dire. È la squadra più forte d'Italia ed è la favorita numero uno per lo scudetto. Sul fronte interno è così in maniera abbastanza certa. Sul fatto che il Napoli insomma, poteva gestire meglio le sue energie se aveva sul serio l'obiettivo dello scudetto nel mirino, siamo d'accordo. Il Napoli si è trovato con questo grande sogno europeo da inseguire, con risultati straordinari e anche imprevedibili, se vogliamo, che hanno trasformato la partecipazione del Napoli alla Champions League in un girone pazzesco, in una meravigliosa gita su campi prestigiosi, in qualcosa in cui anche per motivi economici valeva la pena crederci. Si è trovato in queste condizioni. È evidente che è una squadra molto particolare. È una squadra d'antan, costituita da 11 titolari e da tutte le altre riserve. Le riserve non sono, anche come attitudine, all'altezza dei titolari. Dunque aggiungiamo a questo che il Napoli gioca anche in una maniera molto particolare, che richiede un grandissimo impiego di energie mentali oltre che fisiche, una grandissima applicazione. Il Napoli è una squadra che funziona se gioca a mille all'ora, se gioca col sangue agli occhi, se gioca con un'intensità pazzesca, allora diventa una grande squadra. Molto difficile farlo ogni tre giorni, e quindi ha fatalmente pagato sul fronte del campionato. Io credo che il Milan sia la squadra ampiamente favorita per lo scudetto. Credo che la Juventus, che non ha le coppe, potrà rimanere lì a contendere lo scudetto al Milan e sotto la finestra, qualora il Milan dovesse fare altre scelte o buttare via qualcosa, sotto quella finestra poteva esserci anche il Napoli, rischierà di non esserci, proprio perché gestire questo doppio impegno per una squadra come quella di Mazzarri è molto difficile. Tanto per chiarire, non sto facendo una campagna contro nessuno, caro ascoltatore, non contro Marotta, non contro la Juventus. Trovo soltanto di cattivo gusto, in un momento come questo, le dichiarazioni di Marotta, che è stato poi in questo caso portavoce della Juventus, ma non nei confronti del Napoli, quanto nei confronti delle autorità che non sono Napoli Calcio e che hanno deciso il rinvio di questa gara. Tanto per essere chiari, vorrei parlare d'altro, con il vostro permesso, e andare a salutare il mio amico Filippo Maria Ricci, che oggi non è a Madrid ma in trasferta a Bilbao. Buon pomeriggio, in realtà ero a Madrid, eh? Oggi si fa doppietta. Oggi doppietta. Prima il Bernabéu e poi la cattedrale San Mamés. Quanta strada fai per una volta? Quanta strada fai per il pallone, eh? Beh sì, oggi divertente. Peccato che diluvia qua a Bilbao. A Madrid c'è un bel sole, qua piove da ieri. Vediamo un po' come sarà sta partita. Però non ci sono rinvii, no? Allora no, adesso vediamo. Manca un'ora e mezza, però là no. Agli stadi in Spagna si arriva normalmente anche quando piove, giusto? Sì, esatto, qui non è successo niente per ora, piove tantissimo da ieri, c'è un allarme arancione, no? Rosso, uh-huh. E non usano i teloni, altra cosa, sono abituati alla pioggia, che qui Bilbao è come se in Inghilterra, stranamente non usano neanche i teloni per proteggere il campo, dice che regge, e adesso poi ve lo racconterò quanto regge. Intanto all'ora di pranzo, non lo so se tu ti diverti a vedere queste partite, tipo quella di oggi tra Real e l'Osasuna, 7 a 1, tripletta di CR7, come vuoi dire all'inglese, alla spagnola, esatto, all'italiano. No, ma è sempre divertente comunque, mi è piaciuto questo radio così a mezzogiorno, secondo me è molto bello, risposta del pubblico clamorosa, diciamo 83.000 persone, record stagionale, e la cosa più divertente è Mourinho che poi bacchetta i tifosi, questa secondo me alla fine è la cosa migliore che resta, perché dice che se non c'erano gli ultrasur, anzi dice se non c'erano quelli dietro la porta, che sono quei 200 ultrasur, dice pensavo, dice, mi sembrava di essere in uno stadio vuoto, c'erano 83.000 persone. Vabbè, ho capito. E ho capito Filippo, ma scusami, ma mangiarsi i bruscolini. Ma no, ma se tu sei comunque tifoso del Real Madrid, vai lì e vinci 7-1, cioè diventa anche un po' complicato fare dei numeri da, esatto, certo, insomma. No, infatti per quella mezz'ora che c'è stata la partita per mezz'ora e lì insomma più o meno il pubblico partecipava. E comunque niente, Mourinho infila questa sua 10ª vittoria consecutiva e va con un treno, per cui importante per ora... quella di coppa, molto importante quella di coppa, eh. Sì, insomma, sono già qualificati, sono già primi praticamente, insomma, l'unica squadra che ha fatto 4 vittorie, non ha ancora preso un gol, insomma, in questo momento è uno squadrone. Oggi ha giocato anche Sahin, che non giocava ad aprile, il debutto, vediamo come va a finire, si è fatto male Di Maria, però insomma sono tutte piccole cose, oggi non c'era Kakà, che secondo me è stato tenuto a riposo in maniera tattica, così non se ne va né in Gabon né in Qatar col Brasile. E perché questo è Mourinho, perché poi ha bacchettato anche la FIFA su questo, certo. Però per ora è un grandissimo Real Madrid, senza dubbio per me la miglior squadra che ha messo su Mourinho in questi 10-11 anni di carriera, insomma è molto molto spettacolare, divertente, forte, conscia dei propri mezzi, sì. Vediamo. Io continuo a ipotizzare, ma poi sto semplicemente fantasticando, una finale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco, che si giocherà a Monaco di Baviera. In questo momento sono secondo me, poi no, tu dici, il Barcellona dove lo metti? Io in questo momento vedo Real e Bayern. Beh, però il Barcellona adesso ha avuto anche tanti piccoli infortuni in questi primi mesi, e diciamo adesso quando rientrano a tempo pieno Sanchez, Fabregas, se Puyol trova continuità, no, per me resta una squadra che farà molto, molto bene. Adesso poi Guardiola sembra avviato alla riconferma, qua su Sport l'hanno già annunciato, lui ieri ha detto no, non è ancora, non è vero, però non, insomma... se lui a dicembre, gennaio dice che si ferma, insomma il Barcellona per me è ancora assolutamente un cliente per tanti versi inarrivabile. Se invece dice che va via, se invece dice che va via, pensi che è finita. Se va via, se lui a gennaio dice che va via, si sciolgono, perché insomma non ho mai visto una squadra capace di resistere, perché cominceranno a pensare, a parte che il catalano di mentalità è piuttosto pessimista, e gli viene una depressione che insomma, che levati. E invece se annuncia che resta viene la depressione agli interisti, a Moratti, perché sì, il sogno, esatto. il sogno vabbè, è quello, ma adesso quello non è anche, adesso magari c'è ancora tempo di cambiare quei 3-4 allenatori in un anno e mezzo, poi arriverà magari Guardiola, insomma, prima voi. Problema, no? aspetta Godot. Sì, insomma, tanto c'è oggi contro quello che all'Inter ha detto no, Marcelo Bielsa. Esatto, che tra l'altro sì, quello che qua è stata fatta tanta filosofia, che il suo maestro e tutto, si sono visti un pomeriggio, e siccome Bielsa è un amabile l'ha tenuto in casa per 11 ore, lui l'era andato a trovare così per prendere un tè, è rimasto lì 11 ore. Hanno parlato tanto, hanno parlato di tattica, sono messi in giardino a spostare delle sedie, così insomma, perché questo sono Bielsa e Guardiola. E oggi per la prima volta si ritrovano, quindi è interessante, e tra l'altro Bielsa con l'Atletica ha fatto per me un mezzo miracolo, perché prima era una squadra molto inglese e anche degli inglesi quelli kick and run, insomma, no? Palla lunga e pedalare, e adesso invece vogliono tenere la palla, e vediamo stasera, perché loro la tengono la palla con giocatori che non sono certo Xavi e Iniesta. Però ci vogliono provare, e infatti è quello che ieri poi Guardiola ha detto per elogiare Bielsa, dice è riuscito già a farsi seguire, come dire, nonostante il materiale umano sia quello che è, perché questa, bisogna sempre ricordarlo, è una squadra fatta in casa, certo. Cioè qua prendono al massimo dalla Navarra, insomma, sì. E vediamo come va a finire, insomma il clima condizionerà, lo stadio e tutto, per me il Barcellona, questa per il Barcellona può essere una partita a rischio, certo. Vediamo come va a finire. Tu copriti bene intanto, non prendere troppa acqua, sì. Mi raccomando, no, bene, stai attento alla voce, che ci serve. Certo. Grazie Filippo, va bene, a voi un abbraccio, ciao. Grazie. Grazie Filippo Maria Ricci dalla Spagna, da Bilbao per la precisione, e torniamo agli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Luca Verona, poi Marzio, poi Gianni. Buonasera Luca. Buonasera a lei, grazie di avermi contattato. Grazie a lei. Io volevo darle uno spunto per Mihajlovic. Sì. Io vengo da Verona, ho visto Chievo-Fiorentina oggi. Non ho visto una squadra attaccata all'allenatore. Non ho visto quello spunto che si dice deve rimanere come in altre occasioni. Sì. Tutti hanno fatto il compitino, ma il compitino da 0-0. Certo. Il compitino, che ha ragione Mihajlovic, hanno avuto i due infortuni. Ma sa Luca, quando un allenatore comunque viene esautorato dalla piazza... Esatto, ma non solo dalla piazza, secondo me era tutto l'ambiente oggi che, come dire... Stanno aspettando il momento per cambiare allenatore. In certe occasioni, ha ragione il mio amico Zamparini, dice in certe occasioni bisogna intervenire prima. Sì. Non si può aspettare una squadra come la Fiorentina, una città come la Fiorentina. Ho capito, il suo amico Zamparini però interviene sempre molto prima della necessità, molto prima della necessità, addirittura prima dell'inizio dei campionati certe volte interviene il suo amico Zamparini. Luca, io credo che insomma si sia creata a Firenze una situazione, una condizione per cui, e lei credo abbia letto bene anche il messaggio del corpo dei giocatori della Fiorentina, il body language dei giocatori della Fiorentina, evidentemente non sono più con un allenatore che è stato esautorato nel corso di queste settimane, vuoi dalla piazza, vuoi dalla dirigenza, vuoi dai risultati, vuoi dalla stessa squadra alla fine. Dunque non può esserci futuro in condizioni come questa. Marzio da Milano, buonasera. Buonasera a lei. In tutta leggerezza, parafrasando quello che ha detto prima, aspettando Godot, io potrei, aspettando Godot, aspettando l'Inter, sì, in quanto sono profondamente milanista, vivo male questa situazione dell'Inter, in quanto viene a mancare quella rivalità, quello scontro fisico tradizionale. Secondo lei potrà riprendersi l'Inter? Per, cioè, lei vuole un Inter più forte da milanista, ho capito bene? Ovviamente, bisogna battere chi è forte, non chi è debole. Certo, ripassare alla prossima occasione, io credo, Marzio. Non penso che l'Inter possa rientrare in alcun tipo di gioco di vertice della classifica. È in una situazione di fine corsa, sta andando molto bene in Europa, e questa è un'altra notizia interessante, perché Ranieri insomma ha sempre vinto in Europa, 9 punti in un girone che tutto sommato è rispettabile, ha vinto a Mosca, ha battuto il Lille 2 volte, dunque guida il girone di Champions League, ma addirittura penso che l'Inter possa appunto trovarsi nelle condizioni di giocarsi in Europa le ultime cartucce. In Europa è una botte via, in campionato è una corsa molto lunga in cui serve una continuità che non credo si possa più domandare a questa squadra. In Europa non vedo un Inter, così come per il Milan non vedo un Inter da corsa in assoluto per fino alla fine della Champions League, non vedo un Inter in grado di vincere la Champions League, però è una squadra che con il talento che ha nella partita secca può divertirsi, diciamo così. Dunque io torno agli ascoltatori, a cominciare da Gianni da Novara. Gianni da Novara, però leggo a tutti voi una dichiarazione di Prandelli che sta per radunare la nazionale, e l'Italia, come saprete, io immagino, si allenerà a Rizziconi su un campo confiscato all'Ndrangheta, idea nata da Don Ciotti in occasione del premio Bearzot. Siamo orgogliosi di portare la nazionale in Calabria, ha detto Prandelli. I ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo, speriamo di svegliare gli animi e portare un sorriso in una terra particolare. Questa mi sembra una gran mossa, comunque, dal punto di vista organizzativo, insomma. Gianni Novara, buonasera. Sì, buonasera a lei. Dica. Volevo parlare della parte bassa della classifica, in particolare appunto di una squadra che nel cuore le sta. Esatto, che sto seguendo da poco, da pochi anni, come la maggior parte dei miei concittadini, devo dire, ed è il Novara. Novara che gioca su un campo sintetico, peraltro come il Cesena, ma che entrambe non stanno avendo molto successo, sebbene io ritengo ci sia una certa differenza tra Cesena e la stessa Novara. Volevo un suo parere, da esperto, come secondo lei Novara se la potrà cavare quest'anno o in questa prima metà dell'anno, della stagione, anche magari guardi Gianni, io credo che nuovi acquisti, ma appunto io credo che a gennaio qualcosa da aggiustare ci sia. Credo che il Novara stia facendo quello che deve. È evidente che il salto sia stato molto importante, anche perché il Novara ne ha fatti un paio nel giro di due stagioni con una squadra che ha un'identità, un'ossatura, una filosofia ben precisa, una squadra molto interessante. In Serie A serve probabilmente una qualità un po' superiore, che credo verrà innestato, si tenterà di innestare nel mercato di gennaio. Io credo che il Novara non si arrenderà tanto presto alla retrocessione, credo che starà lì a combattere con tutte le altre fino in fondo, anche perché quando hai una squadra con un'identità precisa come questa, ebbene, è già una garanzia a prescindere dagli interpreti. Saluto e ringrazio invece Francesco De Luca, penna importante del Mattino di Napoli. Ciao Francesco. Buonasera. Vorrei una tua lettura di questa polemica che c'è stata dopo le parole di Marotta e di cui io sto parlando ormai da 2 ore e mezza. Ma sai, io comprendo il disagio, l'amarezza, la rabbia della Juventus, però da un lato la Juventus si arrabbia, dall'altro prende atto di una situazione che è al di sopra ovviamente di una decisione sportiva. Certo, è abbastanza strano che tutto sia maturato quando il tempo a Napoli è nettamente migliorato, però credo che il prefetto e il sindaco di Napoli abbiano spiegato con chiarezza che il discorso non era legato a un discorso atmosferico, ma a un problema di viabilità che si sarebbe potuto correre. In realtà qual è il problema? Che e il prefetto, il questore, il sindaco non se la sono sentita di impegnare un numero cospicuo di agenti allo Stadio San Paolo per questa partita, e probabilmente lo Stadio San Paolo, che è uno stadio che avrebbe bisogno di un accurato restyling, non offriva tutte le garanzie necessarie per lo svolgimento di questa gara dopo l'acqua che è venuta giù a Napoli nelle ultime ore. Certo, vista dal punto di vista degli juventini, insomma, è sorprendente che la decisione sia arrivata attraverso una comunicazione del direttore sportivo del Napoli, che era appena uscito dalla prefettura e non dalla Lega, perché ovviamente una società deve essere avvisata dalla Lega e non dal dirigente dell'altra società. È un qualcosa di molto singolare, su questo convengo con la Juventus, però credo che insomma tu dici nelle modalità è stata abbastanza singolare, perché io credo che comunque il prefetto di Napoli avrebbe dovuto valutare l'importanza della partita e quindi mettersi anzitutto in contatto con la Lega, o avrebbe dovuto farlo il questore. Invece questo non è avvenuto, ed è comunque singolare che la comunicazione sia arrivata alla Juventus questo da parte di un rappresentante del Napoli. Questo certamente. Questo, evidentemente, per motivi di ordine pubblico, per il timore che in altre zone della città potessero servire vigili urbani, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, dopo una nottata di tregende, dopo una mattinata veramente molto pesante, ecco, questo timore ha probabilmente spinto la questura, la prefettura e il sindaco a far rinviare questa partita. Tu credi che, Francesco, tu credi che il clima generale che sta vivendo l'Italia in questi giorni abbia influito su questo tipo di decisione? Io credo di sì. Io credo che quanto è accaduto a Genova faccia riflettere in questo momento molto seriamente gli amministratori e i rappresentanti del governo in ognuna delle nostre città sui rischi che si corrono e sulla necessità di adottare il maggior numero di accorgimenti possibili per garantire la sicurezza o comunque per limitare i disagi. Hai un'idea di quando possa essere il giorno della partita? Perché c'è un balletto di date. Sì, c'è un balletto, ma io credo che è molto improbabile, come il Napoli desidera, che si possa giocare il 14 dicembre, credo che si giocherà il 30 novembre, anche perché la Juventus mi pare che abbia un posticipo al 12 dicembre, quindi la trovo abbastanza improbabile come soluzione quella del 14. Io credo che si giocherà il 30 novembre, domani al massimo martedì arriverà la decisione da parte della Lega, poi auguriamoci che su questa decisione, che ripeto non ha nulla di tra virgolette di sportivo, ma è una decisione dettata da pure da un eccesso di prudenza, che però io credo di questi tempi non faccia mai male, ecco, si arriverà, io mi auguro, a un accordo, perché poi fare una polemica su una decisione presa da un prefetto, cioè quello discorso, una città, mi sembrerebbe, cioè accusare velatamente anche di parzialità. Sì. No, ma infatti io credo che se c'è qualcuno che si può offendere per questa polemica non sia il Napoli Calcio quanto le autorità napoletane. No, assolutamente, il Napoli Calcio tra l'altro era rappresentato da un funzionario a questa riunione, non c'era alcun altro dirigente che avrebbe potuto esercitare chissà quale pressione. Io credo che, ripeto, prefetto, questore e sindaco si siano presentati a questo appuntamento di stamattina con un'idea chiara, che era quella, temendo appunto, avendo ancora negli occhi quanto purtroppo era accaduto a Genova nei giorni scorsi, di non correre dei rischi e di affrontare la cosa nella maniera più indolore possibile. Certamente. Francesco, ti ringrazio. Ringrazio buon voi. Lavoro. Buon lavoro a Francesco De Luca dal mattino di Napoli. Dunque, la situazione è in questi termini, non l'abbiamo parlato anche troppo oggi pomeriggio, ma credo che dopo questo intervento sia tutto estremamente chiaro. È un peccato perché oggi sarebbero stati molti altri temi divertenti da trattare, perché era una partita importantissima per il destino di entrambe, quella che ci preparavamo a vedere questa sera. Per la Juventus poteva essere la partita della consacrazione o della fuga o della accrescere dell'autoconvinzione, un'autoconvinzione che la Juventus sta costruendo in questo periodo. Beh, per il Napoli era semplicemente la partita del destino, perché vincendo questa partita sarebbe rientrato pienamente nella corsa per lo scudetto, mentre perdendola sarebbe stato, insomma, avrebbe confinato i suoi sogni all'Europa. Partita che vedremo in seguito, con ogni probabilità, come avete sentito, il 30 di novembre, peraltro all'interno, come dicevo prima in apertura, di un ciclo pazzesco per il Napoli. Abbiamo giusto un minuto per sentire la voce di Daniele da Bologna. Buonasera. Buonasera. Dica. Io ieri ho visto la Roma e mi sembra che assomigli un po' come gioco al Barcellona, perché si compiacciono molto di se stessi. Nei sogni di Luis Enrique, sì. Sì, vabbè, però come ieri sera ho visto, però si compiacciono molto di se stessi e molte volte nessuno ha il coraggio di tirare in porta. Il Barcellona ce la fa perché ha dei solisti che sono di un altro, una spanna sopra gli altri, però certo. Quest'anno se tirasse un po' di più in porta forse farebbe ma questo risultati. È il difetto più evidente della Roma. D'altra parte Luis Enrique ne avrà sentito prima di questa partita di Novara, che era fondamentale anche per lui ed è inutile nasconderlo, aveva detto va bene tutto quanto ma adesso pensiamo al risultato. Il risultato lo ha centrato. È chiaro che è un lavoro, quello che Luis Enrique sta facendo, davvero molto lungo e dall'esito incerto, aggiungerei. Ci sentiamo dopo per il basket, dalle 8:30 alle 9 c'è Palla Spicchi. Io per il momento ringrazio Giorgio Lucchi in redazione, Filippo Auregi in regia. A più tardi.